Capitolo 15. Coppia di opposizione minimale. Consonanti semplici e consonanti geminate. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia delle consonanti semplici e geminate. 1. Roseto, rossetto. 2. Abate, abbatte. 3. Amica, ammicca. 4. Amaca, ammacca. 5. Alata, allatta. 6. Aceto, accetto. 7. Comete, commette. 8. Asilo, assillo.